Siamo in collegamento con il giornalista Davide Turrini. Intanto ti saluto, ciao Davide. Ciao a tutti, buongiorno. Siamo in collegamento per parlare del cosiddetto decreto ammazza Netflix, di cui tu tra l'altro hai scritto un articolo per il fattoquotidiano.it. Allora, poi andremo nel dettaglio di cosa prevede questo decreto, ma per prima cosa ti volevo chiedere: l'impressione che esce dal tuo articolo è una visione comunque positiva di questo decreto, corretto? Allora, sì, diciamo che a mio avviso, e poi per come è stata letta anche da chi ha seguito la contrattazione, la trattativa per portare a casa questo decreto, quindi mi riferisco a tutte le associazioni di categoria, quindi l'ANICA, produttori, distributori, esercenti, effettivamente sembra apparentemente rispondere a una serie di cambiamenti del mercato dell'audiovisivo tra cinema, streaming, pay TV e televisioni, abbastanza, come dire, calzante. Ecco, in maniera oggettiva mi sembra che ci stia abbastanza dentro alla questione. Poi è chiaro che ci sono anche qui dei punti dove qualcuno ci può rimettere, nella fattispecie, e questo magari ci arriviamo per gradi, però credo che molto probabilmente piccoli produttori e piccoli distributori faranno ulteriormente fatica. È un mio punto di vista, ecco, ci andrei per gradi. Prima proverei, come dire, a spiegare oggettivamente quali sono i punti di questo decreto, almeno i due cambiamenti più evidenti, dopodiché aggiungerei appunto una serie di considerazioni. Che ne dici? Sì, perfetto, infatti ti volevo chiedere appunto per prima cosa di spiegarci questo decreto. La genesi di questo decreto è tutto parte fondamentalmente da quello che è accaduto a settembre scorso, che vi ricorderete sulla mia pelle, il film di Cremonini sul caso Cucchi, che è stato prodotto da Cinema 11 di Olivia Musini e la Lucky Red di Andrea Occhipinti, ed è stato distribuito contemporaneamente nelle sale e in streaming da Lucky Red in sala e in streaming da Netflix. Questo cosa ha provocato? Ha provocato uno scossone, uno scandalo nel sistema produttivo e distributivo italiano, tant'è che appunto Andrea Occhipinti, che era presidente dei distributori italiani, ANICA, si è dimesso proprio perché ha ricevuto delle critiche su questa scelta. E la trattativa, per quel che si sa, era già stata avviata precedentemente tra il nuovo ministro Bonisoli, soprattutto la sottosegretaria Borgonzoni, era già stata avviata durante l'estate, da quando insomma il nuovo ministro si è rischiato. Detto questo, l'accelerata è avvenuta da settembre in avanti, quindi è un decreto che comunque raccoglie già intanto dei pareri degli addetti ai lavori. Quindi i più entusiasti di questo decreto sono ovviamente l'associazione produttori ANICA, l'associazione distributori ANICA e gli esercenti ANICA. Appunto io nel mio articolo li ho intervistati, Francesca Cima, che è produttrice di Sorrentino, ma anche di film molto piccini ed indipendenti, low budget, e di Luigi Lonigro, che è il presidente dei distributori, che a sua volta però è anche presidente di 01 Distribution, uno dei più grandi distributori italiani. Il decreto Bonisoli, che è stato comunicato qualche ora fa con una certa sorpresa, perché nessuno era pronto a ricevere questa comunicazione, durante un convegno a Roma, Bonisoli ha mandato un video, insomma una cosa brevissima, 2 minuti, e in questo video ha finalmente detto: mi accingo a firmare questo decreto diciamo così, che nel filmato Bonisoli ha parlato di qualcosa di ultraprotezionista, dicendo: finalmente facciamo ordine, non accadrà più che un film uscirà contemporaneamente in sala e in streaming, e adducendo al fatto che le sale devono, insomma gli esercenti devono essere tranquilli nella loro vita commerciale e non devono presentarsi delle sorprese del genere. Allora, immediatamente la notizia è stata battuta dal sito di Repubblica, che l'ha battuta così, come è stato detto in quel video messaggio. Se si aspettava un pochino, magari si vedeva che cosa c'era dentro questo decreto. E Bonisoli effettivamente ha ragione, però noi non è che improvvisamente l'Italia è diventata la Francia, cioè che i film hanno un periodo di latenza per legge, che devono stare in sala e non si può superare questa norma, tant'è che al Festival di Cannes di ormai 2 anni fa Thierry Frémaux ha detto: no, io non voglio film di Netflix perché non usciranno in sala e la legge in Francia non ce lo consente. L'attenzione del Festival di Cannes ha al suo interno i distributori degli esercenti francesi, e quindi non potevano fare altrimenti. Il Festival di Venezia però recentemente ha superato questo ulteriore limite, e quindi si è creata anche una guerra tra festival su questa contemporaneità cinema streaming dei film. Bonisoli dice queste cose, la notizia viene battuta, però poi all'interno del decreto, come tu dicevi, ammazza Netflix, ma insomma a mio avviso non ammazza nessun Netflix, anzi Netflix a questo punto si ritrova invece che una consuetudine che era il sistema italiano, che non era una vera e propria legge che andava rispettata, però la consuetudine dei 105 giorni, alcune norme previste da contratti, eccetera. 105 giorni, il film che è uscito in sala prima di 105 giorni non poteva finire su pay per view, in streaming, eccetera, eccetera. Questa finestra unica che Francesca Cima, produttrice di Sorrentino, ha definito una sorta di monolite, di qualcosa di pietrificato, viene abbattuta con la creazione di tre finestre. La prima finestra è una finestra in cui un film può rimanere in sala 3 giorni consecutivamente e successivamente è già libero di essere visto, si può già vedere dopo quei 3 giorni in streaming. Seconda finestra, 60 giorni per un film programmato in meno di 80 schermi e dopo i primi 21 giorni di programmazione si è ottenuto meno di 50.000 spettatori. Ecco, questa seconda finestra, questa tipologia di film che rispetta queste nuove norme, si libera appunto dopo 60 giorni per essere visto in streaming. Rimangono poi 105 giorni per i grandi eventi, i grandi film, appunto i Sorrentino, i Garrone, eccetera, eccetera. Questo però cosa comporterà? Comporterà che le produzioni e poi i distributori e successivamente gli esercenti dovranno decidere subito quando andranno a creare un budget, andranno a creare un piano di lavoro, una preproduzione, dovranno andare subito a costruirci una pianificazione che rispetti una delle tre finestre. Questo per ottenere appunto i benefici di Stato o finanziamenti come Opera Prima, finanziamenti pubblici generici, oppure come tax credit, quindi sono finanziamenti diretti e indiretti. Allora, cosa succede a mio avviso? Succede che, e qui arriviamo a quello che secondo me ci rimette, di certo non ci rimette Netflix, che avrà davanti a sé probabilmente davvero una tipologia di prodotti più diversificati. Qui secondo me ci rimette un piccolo distributore prima di tutto e anche un piccolo produttore, nel senso che un povero disgraziato che produce 3 film all'anno, 2 film all'anno, cosa punta? Di certo non punta a 3 giorni in sala e poi a uno streaming illimitato, punta a fare il colpo. È sempre andata così a livello industriale nel cinema italiano, europeo e anche americano. Cioè, punti a fare il colpo e dici: trovo un buco in sala, riesco ad accordarmi con distributori esercenti, faccio il colpo e via. E mi arriva un'attenzione mediatica e magari anche altri capitali per futuri lavori. E adesso tu, se tu hai un potenziale davvero risicato, il film è low budget, alla fine sceglierai la prima finestra, al massimo la seconda. E la prima finestra significa che dopo 3 giorni il tuo film ha finito la sua vita in sala. Quindi la piccola produzione o il piccolo distributore che cosa fa? Obiettivamente rientra in gioco il grande produttore e il grande distributore, e cioè questi cosa faranno? A mio avviso, questo siamo nell'opinione personale, cosa faranno? Diranno: bene, io produco il film di Sorrentino, ma produco anche un film low budget, se mi l'ha fatta bene in 3 giorni facciamo il caso, creiamo il caso, al 4º giorno va in streaming e pace. Però a livello di utili non ci ho perso granché, non è stato in sala 10 giorni, quindi non ho fatto dei contratti e poi c'ho la sala vuota. A mio avviso c'è una razionalizzazione, il ministro Bonisoli viene dall'area manageriale della cultura, quindi paradossalmente anche a livello politico, se vogliamo, è chiaramente una semplificazione, una razionalizzazione di un sistema che evidentemente qualche piccolo problema dal punto di vista dei costi e dei ricavi ce l'aveva. Ti volevo fare 2 domande molto veloci perché in realtà siamo già andati un po' lunghi. La prima è: quello che viene fatto con questa norma è di praticamente dare una forma di legge a qualcosa che prima era una norma di mercato, diciamo, e quindi viene regolamentata a livello di legge. Però in realtà ci sono già stati dei casi come quello che citavi tu di Sulla mia pelle, che hanno contravvenuto a questa norma quando era ancora solo di mercato. Tra l'altro, una delle critiche che viene fatta all'idea che Netflix danneggi le sale è che invece non Netflix in sé, ma in generale lo streaming, soprattutto per quanto riguarda i film più piccoli, possa produrre un passaparola che invece gli fa bene. Per dire, anche nel tuo articolo si dice che comunque Sulla mia pelle ha avuto un successo anche nelle sale, ottenendo più di 600.000 euro. Sì, bisogna dire questo, che in questo momento obiettivamente a livello di streaming nel nostro paese Netflix la fa sostanzialmente da padrone, siamo in un regime direi monopolistico, cioè le altre sono delle piattaforme molto molto piccine, vedo che qualcuno ci sta provando, tipo anche MyMovies ha provato a fare qualcosa come sito web, però intuisco che insomma o lavori qui su grande scala a livello di multinazionale, altrimenti è molto complicato reggere la concorrenza di un gigante come Netflix. Quindi intanto Netflix fa sostanzialmente ciò che vuole, prima cosa, fa ciò che vuole, e dobbiamo anche essere noi come utenti dell'audiovisivo essere un attimo un po' sinceri, cioè chi di noi non si trova delle volte appunto un po' più pigro, un po' più stanco e dice no basta, sera non esco, non vado a vedere il film, tanto ce l'ho su Netflix. Purtroppo anche qui ci vorrebbe una sorta di rivolta culturale, etica, e abbandonare completamente quella strada, altrimenti lo streaming streaming ovviamente si prende il suo spazio e entra nella quotidianità di chi usufruisce di questo prodotto. La questione sulla mia pelle, sì, anche quella è una questione molto molto molto complicata. Diciamo che Occhi Pinti di Lucky Red ha gettato il sasso, però non ha tolto la mano. Lucky Red, se ci pensate, sta facendo un lavoro da parecchio tempo che non è più solo quello di distribuire il cinema di nicchia o con dei target, cinema impegnato, no, fa sia quello ma anche la compartecipazione a livello distributivo e produttivo di film che finiscono nelle multisale. Faccio un esempio: La Tana del Lupo. La Tana dei Lupi, un thriller straordinario tra l'altro, americano, di 2 anni fa, Lucky Red ha puntato sulla multisala e allo stesso tempo Lucky Red ti porta in sala, nelle piccole sale, L'Ereditiero, un film peruviano, magari non meraviglioso, però film d'autore, film di sé. Quel tipo di stratificazione che vi segnalavo prima è già avvenuto, qualcuno in Italia lo sta già facendo, ora lo potrà fare assieme a chi gestisce la maggior parte, insomma il monopolio dello streaming in Italia, che è Netflix. Questo secondo me è il cambiamento. Mi sembra comunque, nell'andare avanti in questa intervista, che stiamo descrivendo due realtà completamente diverse. Nel senso, da una parte c'è proprio quella delle piccole produzioni, che forse tutto sommato la vera questione di quanto impatti questa legge su di loro è se prima sulle piccole produzioni, sui film indipendenti, quelli magari non distribuiti su Netflix, se anche loro fossero sottoposti a questa norma di mercato per i 105 giorni oppure no. Nel senso che ora invece c'è una norma che sta cercando di regolamentare comunque tutto quanto, tutto insieme, quindi la grande distribuzione, quindi i grandi film e allo stesso tempo quelle più piccole. Sì, diciamo che esistono poi appunto tante voci, non esiste solo l'ANI che raggruppa tutti i produttori, tutti i distributori, tutti gli esercenti. Esistono anche i piccoli produttori, hanno una loro associazione, stamattina ho parlato con uno di loro e mi spiegava, per esempio, non sono del tutto contraria, però ci sono alcuni, anzi tanti punti dolenti. Uno per esempio mi raccontavano è questo per le piccole produzioni, per esempio prima c'era un riconoscimento, almeno avevano tentato di mettere nel nuovo decreto un riconoscimento se il film partecipava ad un festival, c'è un elenco appunto di importanza per i festival internazionali e nazionali, e questo avrebbe portato per esempio ad una sorta di gravio fiscale, insomma un aiuto per essere distribuiti in sala. Pare che questa parte non ci sia più nel decreto, su questo ancora non c'è una certa sicurezza perché il decreto non è stato visto ancora nella sua interezza da tutti. Allora adesso quando avremo il decreto completo capiremo ancora più elementi, però ecco, di fondo secondo me un piccolo produttore adesso si ritroverà davvero poche strade a sua disposizione. Ricordiamoci sempre che la distribuzione e l'esercizio costano per un film, anche se in digitale. Ecco, anche qui sarebbe bello un giorno fare un approfondimento sulla famosa democratizzazione digitale. Ragazzi, ma accidenti, cioè dov'è questa democratizzazione? Cioè, alla fine il digitale comunque deve passare dalle forche caudine di una sala, e le sale sono in crisi, e le sale non hanno pubblico, e dove va a finire questo lavoro? Se va a finire poi appunto in una visione collettiva, come è stato per sulla mia pelle eccetera, però poi non strappa biglietti e alla fine la prossima volta la produzione ci pensa due volte a rifare un film così. Insomma, il problema è complesso, però l'unica certezza secondo me, e chiudo, è che purtroppo questo è un settore che a livello di pubblico ha sempre meno numeri, ha una quantità sempre minore di spettatori, e invece dall'altra parte Netflix, che è la piattaforma in streaming, posso aggiungerci un purtroppo, perché io per esempio non ho Netflix, non lo voglio vedere, però sta raggiungendo delle cifre a livello di mercato in Italia, in molte zone italiane, per esempio nei centri urbani, veramente incredibile, si aspettava magari più in periferia, nei centri urbani è molto alta la cifra di abbonati che usufruiscono. Quindi su questa strada comunque bisogna provare a ricostruire un discorso anche a livello legislativo. Mi sembra che questo decreto lo faccia, effettivamente ci saranno morti e feriti anche per questo decreto, su questo non c'è dubbio. Va bene, io ti ringrazio e ti saluto. Grazie, ciao, a presto.